Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, m'émure plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait. Voi ce l'avete, l'angelo custode? Je me suis réveillée. Sì, perché potrei chiedere, credete all'angelo custode? Ma sarebbe una domanda del tutto inutile. Chi crede all'angelo custode non ha bisogno di affermarlo, di razionalizzarlo, di spiegarlo. Non esistono strumenti per provare l'esistenza del proprio angelo custode. Chi altresì non ci crede può dire che appartiene al folklore, alla storia delle religioni, alle varie credenze sono costruite gli uomini, oppure, come dice Stefano Zecchi giorni fa su una pagina sul giornale, quando la ragione non trova più la forza in se stessa per fronteggiare le difficoltà che si presentano, uno poi attinge a questi retaggi che fanno parte dei ricordi familiari, dell'educazione ricevuta da piccoli o dei canoni religiosi che attorno a noi vediamo affermarsi, vediamo confermarsi. Giorni fa il Papa ha confermato l'esistenza degli angeli. Non sono figure leggendarie, esistono, ogni angelo ha un uomo a disposizione e addirittura anche chi non ci crede ha il suo angelo vicino. Questa mattina è molto rischioso, che vorrei parlare di angeli custodi e normalmente la cifra costante delle mie trasmissioni è l'erisione, il cinismo, è non dar mai nulla per scontato, è mostrare sempre i lati grotteschi di ogni vicenda. Ma sull'angelo custode cosa volete scherzare? Nessuno è obbligato a crederci, nessuno è obbligato a pensare che possa esistere qualcosa al di là di ciò che razionalmente possiamo ponderare con i nostri sensi e di cui abbiamo una tangibile e concreta spiegazione. Però io posso dirvi una cosa per quello che mi riguarda. Spesso da bambino sognavo di incontrare un altro bambino che in realtà era un angelo a cui erano cadute le ali e mi raccontava, mi diceva, mi parlava di questa nostalgia delle sue ali perdute, ma allo stesso tempo era molto curioso, molto interessato a sapere quale sarebbe stata la sua vita da bambino. Gli uomini hanno sempre pensato che a un certo punto gli angeli fossero scesi sulla terra perché attratti dalle donne degli umani e si fossero mischiati con gli umani. Altresì gli uomini in una sorta di moderno ritrovamento, recupero di ciò che sembrava perduto, allontanato, affidato al retaggio delle superstizioni, hanno riscoperto gli angeli. La fantasy, la fiction, i videogame sono pieni di angeli. Riappaiono gli angeli, riappaiono questi esseri simili a supereroi, splendidi, fortissimi, invincibili, dei veri eroi. Ognuno ha una sua specialità, ognuno ha una sua arma, ognuno ha un suo potere, ognuno ha una sua magia, ognuno ha un suo talento. Hanno queste ali bellissime, sono padroni della tecnologia, sono padroni del sapere di chi vive come essere umano e di chi vive al di sopra della natura umana. Beh, questa mattina io vorrei riflettere sugli angeli custodi, senza pregiudizio, senza ridere, senza sorridere, senza prendere in giro chi ci crede, senza nemmeno affermare il principio assoluto che sia necessario crederci per forza, anche se Massimo Cacciari molti anni fa scrisse un libro in cui diceva che l'angelo era necessario. Gli angeli esistono ed esistono gli angeli custodi, lo ha detto Benedetto XVI tornato a Roma dopo il periodo estivo trascorso a Castel Gandolfo. Dal Papa un monito agli uomini di Chiesa, nel Vangelo si legge che se non sarete fedeli a voi sarà tolto il regno di Dio. Cari amici, il Signore è vicino e operante nella storia dell'umanità e ci accompagna anche con la singolare presenza dei suoi angeli, che oggi la Chiesa venera quali custodi, cioè ministri della divina premura per ogni uomo. Dall'inizio fino all'ora della morte, la vita umana è circondata dalla loro incessante protezione. Gli angeli di Dio, la prima domenica di ottobre, supplicano la Madonna per il mondo. Se questa fosse Radio Maria, sarebbe normalissimo sentire cose del genere, tutti parleremmo di angeli. L'angelo in realtà è qualcosa di più rispetto a uno degli aspetti dei corollari di una religione. Tante religioni contemplano la figura dell'angelo. L'angelo, chiunque creda nel metafisico, che crede nella trascendenza, collochi l'esistenza di più o meno definite o definibili presenze nel mondo dell'assoluto, necessariamente deve credere anche in dei messaggeri, in qualcuno che faccia da tramite tra il mondo sovrasensibile e il nostro misero e limitato mondo degli umani. Quindi ognuno può chiamarli come vuole, ma ci saranno appunto queste sorta di linee di congiunzione, truppe di collegamento fra l'assoluto e fra il condizionato, fra Dio e fra gli uomini. Gli angeli, devo dire che in tutte le rappresentazioni sono la cosa più fantastica, rappresentazioni del sacro, volete mettere i martiri, a volte sì, hanno qualcosa di macabro, soprattutto quando hanno in mano gli strumenti del loro martirio, seghe, trivelle, chiodi, fiaccole, graticole. Io sono cresciuto terrorizzato all'iconografia dei santi martiri, con tutto il rispetto. La stessa cosa in quelle rappresentazioni prettamente barocche delle passioni, le crocifissioni, il sangue, la sofferenza, fanno parte della nostra civiltà, della nostra concezione dell'esistenza, ma sono molto angosciose. In realtà l'angelo è bello, l'angelo liberatore, l'angelo vendicatore, l'angelo a un certo punto ha la spada, ma l'angelo ha delle belle ali, l'angelo indefinibile. L'angelo cos'è? Uomo e donna, il sesso degli angeli, quanto si è disputato su questo. Quando l'angelo andò a dare un'occhiata nella città di Sodoma, e cito a braccio, potrei fare degli errori, e chiese ospitalità a Lot, disse: beh sì, ti accolgo. Questa è la Sacra Scrittura reinterpretata questa mattina da me. E a un certo punto i sodomiti cominciarono a bussare alla sua porta, dice: oh, faccio vedere questo bell'angelo, gli diamo un'occhiatina, forse qualcosa di più. Gli disse: no, prendete le mie figlie per salvare la virtù dell'angelo. Beh, l'angelo non è una cosa da sottovalutare. 800240024. Vi siete mai chiesti del vostro angelo personale, custode, come egli sia, come possa essere? Perché da bambini vi hanno detto c'era l'angioletto, pregavate l'angioletto, se dicevate una bugia, una brutta cosa, passava l'angioletto, o succedeva chissà che. Insomma, questo angioletto che vi hanno tanto descritto e raccontato quando eravate piccoli, l'avete continuato a sentire vicino quando siete grandi? Ve ne ricordate soltanto nei momenti di più cocente e disfattista sfiga, oppure pensate sia una presenza costante che avete sempre vicino? Ci conforta, e quando non avremo più nessuno che ci terrà la mano, non avremo più nessuno che si occuperà di noi, forse ci rivolgeremo a quell'angelo, forse lo abbiamo dentro di noi, o forse non ce l'abbiamo, è qualcosa che sta al di fuori, è una proiezione. Insomma, ditemi come la pensate. 800240024. Come angelo custode sono sempre stato al tuo fianco, non ti abbandonerò mai, ma ho bisogno della tua collaborazione. Purtroppo si vuol far credere che non esistiamo. Persino religiosi e sacerdoti non credono alla nostra esistenza in nome di una teologia più evoluta. Ma noi angeli custodi esistiamo. Siamo tantissimi, più di tutti gli uomini che sono vissuti e che vivranno. Abbiamo il compito di custodirvi dal male. Io sono sempre pronto ad intervenire quando ne hai bisogno, ma mi invochi poco. Io devo rispettare la tua libertà e non posso violentare il tuo libero arbitrio. Non te ne accorgi, ma il mio modo di operare... Abbiamo fatto una ricerca su YouTube su angeli custodi e c'è una miriade di contributi. Questo è un angelo che parla in prima persona, non so bene chi sia, un signore che racconta il punto di vista dell'angelo, fa suo il punto di vista dell'angelo. Beh, è facile immaginare cosa possa immaginare l'angelo, ma provate ad essere angelo, provate a pensare cosa possa pensare un angelo che ha il compito e il mandato di assistere una persona che probabilmente se ne infisca completamente la sua esistenza, non vuole essere nemmeno seguito, perlomeno lo ignora. Immaginate stare tutti i giorni dietro le spalle di un essere umano che continua a fare la sua vita come se voi non ci foste, e occuparvi di lui e in qualche maniera guidarlo per quanto possibile, poi si può andare anche per la sua strada o via dicendo. Beh, questa mattina Sarei proprio curioso di sapere quanti sono mai posti il problema dell'esistenza di un angelo accanto a loro. 800240024. Raccontatemi anche se poi l'angelo l'avete identificato in un essere umano che probabilmente aveva delle caratteristiche angeliche, e quello vi ha fatto capire probabilmente qualcuno si occupava di voi al di là della vostra volontà di avere un tutore. Non hai mai visto crepare qualcuno? Merda, è così semplice. Sto in questa pozzanghera, puzzo di benzina da far schifo. Adesso non posso andarmene via come una mammola, è tutto così chiaro. Guarda come se ne stanno qui tutti, come mi fissano, con la macchia d'olio. Come fui sul monte, Karin, e arrivai al sole dalla nebbia della valle. Semplicemente scivolato via, che mi dispiace. Il fuoco ai bordi del pascolo. Quello che avevo accennato prima, citando a braccio reminiscenze di letture mirate alla storia o alla genealogia degli angeli, Wim Wenders lo racconta nel Cielo sopra Berlino. L'angelo che si innamora della donna degli umani. È una tragedia per lui, gli angeli non possono fare questo. Vittorio da Roma, buongiorno. Pronto? Eccomi. Buongiorno. Senta, io stavo ascoltando la sua trasmissione, molto interessante. E volevo soltanto mi sto un po' arrampicando sugli specchi, perché onestamente parlo di qualcosa di cui nessuno può dare prova concreta, però tutti immaginiamo, sappiamo, abbiamo memoria e ricordo che esista, quindi dica pure la sua tranquillamente, senza vergogna, senza timore. No, assolutamente, non è timore né vergogna. Allora, io sono un comandante all'Italia, sono stato diciamo in volo per 50 anni, ora ho 74 anni. Quindi poteva incrociare le rotte degli angeli? Potevo se non che no, l'unica cosa che volevo dirle è che un giorno un bambino diciamo di 4-5 anni aveva chiesto di venire in cabina a vedere qualcosa, insomma, no? E io chiaramente gliel'ho permesso. Il bambino quando è venuto qui, siccome volavamo a 30.000 piedi, quindi a più di 10.000 metri, e il bambino a un certo punto, vedendo che eravamo sopra le nubi, mi fa: ma dove sono gli angioletti? Io onestamente sono rimasto perplesso, non sapevo più cosa rispondergli, e ho detto: beh, attualmente non ci sono perché magari ci sono dei temporali in giro, e è finito il discorso. Beh, se finiscono i motori come i gabbiani, fanno una brutta fine. Appunto, io non sapevo, insomma, naturalmente è molto difficile rispondere a una domanda del genere, però volevo raccontarle questo episodio per dirle che nell'infanzia queste cose che vengono dette, naturalmente una volta forse, non so se adesso le nuove generazioni dicono queste cose, a me mio padre a suo tempo e mia madre a suo tempo mi dicevano che c'era l'angelo custode, c'erano gli angioletti, probabilmente attualmente in certe famiglie ancora questa cosa viene diciamo inculcata. Beh, se il Papa ha sentito la necessità di ribadirlo e di ricordare al suo gregge, guardate che gli angeli non è un'invenzione, un gioco, un'allegoria, ci sono realmente, come altri papi hanno dovuto ribadire l'esistenza del diavolo. Sa, giustamente chi ha la responsabilità di una religione, della pratica religiosa o di essere appunto pontefice intermediario fra l'assoluto e gli esseri umani, deve ogni tanto ricordare che tutto ciò che è stato scritto, perché forse non era soltanto un'allegoria, non era una bella storia come altre, ma se loro sono credenti devono pensare a qualcosa di reale, di concreto. Diego. Pronto? Eccolo. Buongiorno dottor Nicoletti, niente, volevo portarle la mia testimonianza in merito alla presenza degli angeli custodi, in quanto io sono convinto di avere il mio angelo custode che posso dire anche la data, dal 1° di gennaio di quest'anno. No, guardi, ma stando alla regola ce l'abbiamo da quando siamo nati, non è che arriva a metà della vita. Però a me è successa una cosa il 1° gennaio, ho perso mio papà e sono convinto, è una sensazione ovviamente, certo. È una percezione che ho, che in molte situazioni che mi sono accadute durante questi mesi c'è stata la sua presenza e c'è stato il suo intervento. Ma di suo padre, diciamo della presenza sottile di suo padre, ma non dell'angelo custode che c'era già da prima? Ma io, ecco, ho identificato, adesso non so se questo contributo che sto dando... No, lei, l'ho detto questa mattina, non bisogna porsi censure di tipo razionale, perché parliamo di angeli, mica parliamo di conto in banca. Durante la mia vita, Nicoletti, non ho mai pensato effettivamente, o non mi sono mai soffermato fortemente al concetto o alla presenza di angeli custodi. Nessuno si pone il problema, questo è, l'abbiamo capito. Poi nel momento della scomparsa suo padre si è accorto che di avere una presenza vigile accanto a lei. Sì, sembra che sia così. Antonio. Pronto? Sì. Aspetta, abbasso la radio. Io intanto vi ringrazio perché stamattina sono ritornato bambino in 2 minuti sentendola parlare di angeli. E io sono convinto che tante volte, io viaggio moltissimo in motocicletta e ne scrivo 3 al giorno di incidenti, oppure tante volte faccio percorsi diversi, io sono convinto che c'è qualcosa che ci indirizza, per noi è l'angelo custode. Sì, però vorrei non essere vaghi, perché c'è qualcosa, Dio esiste, è un altro problema, in questo momento è l'angelo custode, è molto mirato a una persona... un'entità ben definita, perché sennò ci poniamo i problemi sull'assoluto, è troppo grande per me gestire, già l'angelo è impossibile, quindi fermiamoci all'angelo, se poi esista qualcosa o non esista qualcosa, l'atto di fede in sé non richiede prove, quindi non c'è assolutamente bisogno. Per un cattolico praticante è più facile immaginare che questa entità sì, esiste e si percepisce solo quando si manifesta in un imprevisto che magari ti fa schivare un po', perché io magari dico esisterà sempre, ma ci sono dei momenti in cui si manifesta e questa percezione tutta interiore ti fa riflettere e dice qualcuno c'è, e quindi grazie per aver trattato questo tema. Sì, ma la novità secondo me è, rispetto a quello che ha detto il Papa da sempre, un credente deve credere agli angeli, è normale, ha detto gli angeli ci sono anche per chi non ci crede. È una bella apertura, per una volta sembrava che gli angeli erano tanti quanto fossero le persone che ci credevano. Uno che nasce senza credere o nasce in un paese lontano non ha diritto all'angelo. No, l'angelo c'è sempre, fa parte della dotazione base di un essere umano, è lo standard. Giuditta Dembeck, buongiorno. Buongiorno Luca. Ho tenuto silenziosa in ascolto, sì, Giuditta Dembeck, volevo che avesse un primo assaggio del polso del pubblico. Giuditta Dembeck è una mia antica amica, che vedo pochissimo ma ricordo sempre, è una giornalista, una scrittrice, autrice tra gli altri del libro Breviario degli Angeli del 2007, Meditazione con gli Angeli. Giuditta Dembeck è una persona che ha scritto libri sugli angeli, per lei gli angeli sono una realtà innegabile, o sbaglio? No, è così, infatti, i miei primi video sugli angeli sono del 94, oggi si direbbe in tempi non sospetti. Quindi è inutile che questa mattina chiamavo persone con visioni possibiliste e sfumate. Ho chiamato una persona che sta dalla parte degli angeli, così è facile creare un dibattito fra le persone che poi saranno distaccate, ciniche, prenderanno le posizioni. Giuditta, perché tu credi agli angeli? Perché ci sono arrivata, perché mi sembra una cosa imprescindibile. Non potrei immaginare la creazione senza gli angeli, ma poi non è un solo mio punto di vista, sono andata a cercarmi la presenza degli angeli nelle altre religioni, nelle altre culture, nelle altre epoche, e tutte le religioni, tutte le culture, tutte le civiltà, tutte le epoche pagane o cristiane, politeiste, monoteiste, tutte hanno angeli. Quindi non ho detto proprio una bestialità all'inizio, ho detto che l'uomo si è posto il problema o affermato l'esistenza di Dio, per forza era necessario avere un tramite fra Dio e gli esseri umani. Sì, la cosa è molto molto più complessa, perché non sono solo angeli custodi, l'angelo è il custode di una legge. Ci sono angeli che custodiscono la natura, angeli che custodiscono i pianeti, angeli che custodiscono le grandi forze della natura, che ne so, la gravitazione, i fenomeni atmosferici e così via, che custodiscono ogni animale, vegetale, minerale, che custodiscono un popolo, una nazione, una città, una casa. Quindi non soltanto l'essere umano ha il suo angelo custode, ma... L'essere umano fa parte della creazione e in quanto tale gli è stato affidato un'entità, una presenza, un'energia molto forte, molto, molto potente, che lo accompagna nel suo percorso. Senti Giuditta, io so che gli studiosi della materia hanno poi capillari classificazioni delle gerarchie angeliche che vanno anche oltre quelle classiche arcangeli, serafini, cherubini, troni, dominazioni. ogni persona ha il suo angelo, e l'angelo è possibile anche definirlo in base alla propria nascita, al proprio luogo e data di nascita o altre circostanze che ci fanno capire come si chiama il nostro angelo. Se vai in rete, che è un luogo fantastico ma anche molto cialtrone, ci sono molti siti in cui dice metti i tuoi dati e ti diciamo chi è il tuo angelo custode. Allora, quando nel 94 io ho pubblicato il mio primo libro sugli angeli, Gli angeli fra noi, avevo sotto mano un elenco di angeli antichissimo che si rifà veramente all'Antico Testamento, faceva parte del Pentateuco. Quanti erano? I cinque libri sacri di Mosè, il Pentateuco. Sì, ma quanti erano gli angeli di questo elenco? Allora, gli angeli della Cabala, gli angeli estratti da questi testi, erano 72 e ognuno di loro gestiva 5 giorni dell'anno. 72 per 5 fa 360, ma perché a ognuno di questi 72 angeli sono stati affidati la custodia di 5 giorni, cioè custodiscono 5 giorni. Quindi c'è una, ma questa dottrina delle gerarchie angeliche è ufficialmente riconosciuta? Se io avessi qui accanto a me un prete che mastica un po' di queste cose, mi direbbe che no, è ortodosso, oppure tu ti muovi in un'area diciamo intermedia? No, quello di cui ti sto parlando è tratta dal Pentateuco, che sono gli angeli, i 72 geni della Cabala, i sacri all'ebraismo. Quindi dovrei chiamare un rabbino che mi direbbe sì. Ti direbbe sì, 72 geni della Cabala, ma siccome la creazione è costante e continua e l'angelo è molto di più dell'essere bellissimo, splendente, con le ali, i riccioli, la spada, il giglio e il giavellotto, è molto di più. L'angelo è la pura intelligenza, è la pura energia divina che regola ogni molecola, ogni atomo di materia creata. Bisogna anche quindi stare attenti come si maneggia il culto degli angeli, le presenze degli angeli, stavo pensando. È molto più complesso, però per noi umani, per la grande massa, è così consolatorio, è così bello anche soltanto immaginare gli angeli custodi. Poi se vuoi saperne di più vai avanti all'infinito. Sì, perché rispetto ad ogni altra figura ieratica e consolatoria di ogni religione, i santi, gli eroi, le divinità, l'angelo proprio nella sua neutralità, che alla fine è qualcosa che non è definibile, può essere adattato per tutti, per tutte le esigenze, per tutti i bisogni. Diciamo che è perfetto nel suo ruolo di consolatore e di custode. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Sì, lo so che te ne vai, sai, ma da sola. Celentano può dire che ha l'angelo custode, io non posso dire una mattina che voglio parlare di angeli custodi. Guardate, mi sorprende veramente, cioè non è che mi sorprende, ogni volta mi incuriosisce stuzzicare questo senso profondo, che è il pregiudizio laicista, che è altrettanto pernicioso dello spirito talebano, del radicalismo religioso. Ora, una mattina uno può decidere con leggerezza, con allegria, con curiosità, di chiedere alle persone: credete all'angelo custode? Subito mi scrivono: e allora dobbiamo credere ai maiali che volano, e se ci fossero gli angeli custodi anche le ragazze seviziate hanno il loro angelo custode, e perché hai detto del Papa, vergogna, ti vuol solo fare proseliti. Ma in questo momento sono in una condizione di talmente profonda serenità nel trattare questo argomento, non mi pongo il problema di chi ci creda, perché ci creda o non ci creda, sono solo curioso di sapere, di sentire dalla voce delle persone come è stato elaborato da individui appartenenti alla mia stessa specie umana il concetto dell'angelo custode, che è un concetto molto vivo nella nostra fanciullezza, perlomeno nelle penultime generazioni. Ogni sera si pregava l'angioletto perché ci stesse vicino. Io per anni, cioè dall'età della ragione fino a 10 anni, pensavo fosse lì seduto sul mio cuscino, lo vedevo la notte, ne sentivo il peso accanto, ero tutto tranquillo e contento. Poi mi sono un po' distratto, ho cominciato a avere altre presenze sul mio cuscino e quindi probabilmente me la sono dimenticata, ma questo è un mio limite, non lo considero comunque una mia evoluzione di pensiero, altresì rispetto chi mi dice dice con un sorriso, ma queste sono soltanto costruzioni fantasiose, retrograde, dobbiamo credere soltanto nel razionale, mi sta bene, sono d'accordo. O chi mi dice, certo, che sono gli angeli, sono accanto a noi, esiste una realtà intermedia, non percepibile, non commensurabile, non dimostrabile, che è infinitamente più importante di tutto ciò che vediamo. Sono d'accordo anche con questo. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno. Ha detto bene lei, si può parlare serenamente di questi angeli custodi. E quello, sì, perché finora nessuno ci arresta se diciamo che crediamo all'angelo custode. Infatti. Nemmeno viceversa, se diciamo che l'angelo non ci piace, non ci interessa, o abbiamo curiosità illecite nei suoi confronti. Uno può dire quello che vuole. Sì, in breve le racconto quella che è stata la mia esperienza. Nel 2003 io ho avuto una sostituzione valvolare aortica, dopodiché ho avuto un problema infettivo al sangue, molto grave, nel senso che sono arrivato al limite della dialisi. E una sera in ospedale, qualche giorno prima di questa dialisi, stavo molto molto male. A un certo punto ero solo in camera, si sono aperte le porte, mi si sono avvicinate quelle che io pensavo fossero due infermieri, però si sono avvicinati, erano sospesi nell'aria, si sono affiancati al letto, mi hanno guardato, mi hanno dato una sberla, ma un ceffone pesante, e mi hanno detto: svegliati Giuseppe. Sono usciti sbattendo la porta e io dal giorno dopo sono cominciato a stare meglio. Allora vede Giuseppe, lei ha fatto un racconto, le dico, i due diversi atteggiamenti potrebbero suscitare il suo racconto. Qualcuno potrebbe dire, sì, chissà che farmaci hanno messo per l'anestesia, l'operazione che aveva fatto, e diciamo ha avuto una visione lucida di qualcosa che era probabilmente la sua psiche. Altri diranno invece, vedi, questa è la prova che esistono degli esseri intermedi che a volte si appalesano, che a volte non si appalesano, e che in quel caso gli hanno dato la dimostrazione che doveva farsi forza e superare quel momento particolare per poter continuare a vivere. Altri diranno, come il professor Chiappini, noto esperto in B-movie, erano Bud Spencer e Terence Hill, che anche gli angeli mangiano fagioli, per questo erano sollevati, che l'hanno presa a schiaffi. Però lei ha potuto tranquillamente raccontare la sua storia e nessuno la prende in giro. Abbiamo registrato questa sua testimonianza. Maura. Pronto? Eccomi. Sì, salve. A questo punto penso di essere fuori dal tema della trasmissione, perché io sono un po' critica. Perché fuori dal tema, scusi? Beh, perché se si voleva affrontare questo argomento con leggerezza, così come una fiaba, vabbè, allora... posso essere anche d'accordo. Proprio, mi scusi, come è possibile trasformare questo argomento in qualcosa di razionalmente spiegabile? Io come posso parlare di angeli dando la dimostrazione degli angeli? No, certamente no, chiaramente è inspiegabile. Ma mica hai detto tutto ciò che non è spiegabile non esiste in assoluto. Secondo me è inspiegabile come si possa credere a una protezione di un qualcuno... Che non si vede? No, non soltanto che non si vede, ma che è assente quando veramente serve la protezione. Come lei ha giustamente detto dalle telefonate che ha ricevuto, molte persone sono state critiche, si sono sentite anche un po' offese come me da quanto ha asserito il Papa, che con questa presenza... Perché offese? Scusi, è il Papa... Ma il Papa ha il suo dovere dirlo, è il pontefice, colui che è da ponte fra Dio e gli uomini, ricorda agli uomini che ci sono gli angeli custodi. Ricorda significa che è un qualcosa di già assodato. Certo, per se un cristiano... Se lo ricorda è assodato. Andiamo al punto, cosa vuol dire lei? È assodato sulle basi di cosa? Se lei non ha fede, logicamente non crede a nulla di questo, ma è logico. Però, ecco, la fede allora, non chiede prove tecniche e scientifiche, non c'è l'angelometro che indica... Io potrei anche credere, perché no? Ma è un problema se suo, a me non interessa. Ecco, io vorrei avere una risposta, una risposta da chi invece crede in questa protezione Una mia domanda, che è la domanda, penso, di molti, anche di altri che ma vado a parlare con un prete, con un rabbino, con un bramino, con chi vuole, perché lo chiede a me? L'uomo di fede le dirà la fede si basa su un atto volontario. Lo chiedo anche ai suoi ascoltatori, cioè, siccome io sono scettica su questo. Sì, ma chi è che può portarle l'angelo a guinzaglio e farglielo vedere nella gabbietta? Nessuno le potrà rispondere, Mauro. No, io la risposta che vorrei è questa: se c'è questa protezione, dove sono andati quegli angeli custodi che nel momento in cui molte persone deboli stanno tuttora subendo delle ingiustizie, dove sono? Allora, io le dico la mia risposta. Poi adesso sentiamo Giuditta Demberg, che è la giornalista e scrittrice che ha scritto libri su angeli, una persona che ha passato metà della sua vita a studiare gli angeli, è fermamente certa dell'esistenza degli angeli. Io la penso così: l'angelo non è un giubbotto antiproiettile, non è un bodyguard, non è la protezione sempre. La vita è fatta di perigliose situazioni, e se no vivremmo già in paradiso tutti, in quello che il credente pensa che sia il paradiso. L'angelo è una sorta di risorsa interiore a cui si attinge in certi momenti. Io la vedo così. Giuditta Demberg. Ma è una questione di fede. Se come ad esempio che la credenza della sua controparte oscura, il demonio, lo vede soltanto chi ci crede. Se tu non ci credi, non lo vedi. La stessa cosa l'angelo. L'angelo esiste al di là del fatto che gli umani ci credano o no. È al di là del fatto stesso che il Papa dice sì, esistono. È qualcosa che va al di sopra delle religioni, che va al di sopra delle fedi. La presenza dell'angelo appartiene alla divinità, e la presenza della divinità su questo e su altri pianeti. Ma diciamo, la domanda degli ascoltatori c'è: allora perché succedono tante brutte cose? Ma ci deve essere un motivo per cui noi prima o poi abbandoniamo questo corpo. Ci deve essere un sistema per morire, e l'angelo non può opporsi, nessun angelo, nessuno. E purtroppo noi non lo accettiamo, perché questa è la nostra unica vita. Non sempre l'angelo può intervenire a suo piacimento. Esiste qualcosa che si chiama destino, che gli orientali chiamano karma, contro cui nessuno può intervenire. L'angelo non è un self-service della protezione. È quello che ho detto io, non è un giubbotto antiproiettile. L'hai detto in un modo bellissimo, ma molti pensano, cosa che mi preoccupa a volte, dice ma come mai lei che crede agli angeli ha avuto tanti di questi problemi, è stata paralizzata, è stata... È vero, tu hai avuto una vita piena di disgrazie, giustissimo. Mica perché credo, scrivo, parlo degli angeli, sono protetta, portata sul palmo della mano, no? Allora, fermiamoci solo un istante, Giuditta. Ti darò spazio ampissimo dopo le informazioni del traffico, perché mi sembra che il filo del ragionamento sia proprio questo. Uno può crederci indipendentemente, indifferentemente da quelle sono le circostanze, a volte liete, a volte felici, a volte perigliose, della propria esistenza. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt et à le 800240024. Oggi parliamo dell'angelo custode. Molti mi chiedono: ma tu ci credi, non ci credi? Non è che uno nasce in una maniera nella vita, poi tutta la vita pensa alla stessa maniera. Ho già raccontato che da bambino ero al 100% sicuro di averci l'angelo lì accanto. In certi momenti della mia vita mi sono sentito abbastanza protetto, poi affida ognuno il merito di questa protezione a un'infinità di diverse fattispecie. Qui adesso sto passando un momento in cui sono molto occupato nelle spiegazioni razionali, quindi mi pongo meno il problema dell'angelo custode. Quando sarò con un piede nella fossa, mi riaggrapperò all'angelo come ci si aggrappa a una corda su una parete irta di difficoltà, non lo so. Io sono per la sovrascrittura costante di ogni propria impressione, ideologia e convincimento, quindi non mi pongo poi tanti problemi. Valerio, buongiorno. Buongiorno. Lei non ha dubbi? Com'è? Lei non ha dubbi? Ma prometto che io sono credente, quindi non ho dubbi sulla... Cioè, mica corrisponde aver ammazzato qualcuno, No, ecco, rispondevo alla sua domanda sì. sull'aver dubbi. Sì, ma come dicevo, anche molti non credenti credono nell'angelo custode, poi magari lo chiamo in maniera diversa. Molti si dicono credenti ma non sono praticanti, però credono nell'angelo custode, per questo mi interessava questa mattina parlarne. Prego, scusi. Allora, io sono sì, io non ho un'esperienza diretta come Giuseppe, penso, l'altro... Quello che ha visto gli angeli infermieri, sì. Esatto, esatto, che ci ha raccontato quell'esperienza. Tuttavia, appunto, credo tantissimo nella presenza dell'angelo custode, tant'è che da quando ero piccolino, ricordo, ho dato addirittura il mio angelo custode. Come si chiama? Si chiama Sam. Sam, Sam, il mio angelo custode, al quale generalmente... Ma se l'ha inventato lei o gli ha... Se lei mi chiede come è venuto fuori questo nome, io non so dirle, onestamente. Vabbè, sapeva che si chiamava Sam. E che rapporto ha con questo Sam? Ecco, allora, io... qualcuno mi prenderà per pazzo, però... No, no, io sono l'ultima persona. Vado al punto, però, sennò la devo segare, è brutto. Certo, io... generalmente gli do magari dei compiti da fare, dei compiti molto semplici. È come il genio di Aladino, scusi, dagli ordini lei all'angelo custode. No, non in questo senso, nel senso se c'è da stare più tranquilli, perché io magari vado al lavoro, c'è da badare ai miei figli o a mia moglie, io dico affido appunto mia moglie e i miei figli all'angelo custode. Penso poi, c'è chi si deve procurare delle badanti, delle colf, delle bielorusse, lei c'ha l'angelo, è fortunato. Lucia, sentiamo Lucia. Lucia, buongiorno. Buongiorno, allora la mia esperienza, o per lo più l'esperienza di mio nonno, che è stato ricoverato in ospedale e praticamente ha visto l'angelo custode della persona che era ricoverata a fianco a lui. Questa persona soffriva di crisi ipertensiva, insomma l'angelo custode ha parlato direttamente con il nonno, al quale ha detto che insomma questa persona non si sarebbe dovuta più preoccupare, che dal giorno dopo sarebbe stata bene e così è stato. Meglio. Quello che negli ospedali è luogo di frequentazione. Alberto, Alberto. Buongiorno Nicoletti, nella mia presunzione provo a darle una spiegazione razionale passando per la mia esperienza di conoscenza degli angeli, ovviamente è un tentativo il mio. Io sono credente, credo che sia legittimo essere credente piuttosto che non credente, vedo un pochino meno legittimo anche essere non credenti, è legittimo tutto. Assolutamente sì, l'ho detto adesso, è legittimissimo sì, sì. Essere non credenti, un pochino meno legittimo diciamo costruirsi la propria religione, nel senso che se io voglio essere, che ne so io, buddista e però voglio continuare a mangiare le mucche, allora cerco un'altra religione. Andiamo agli angeli, andiamo al punto. Andiamo agli angeli velocemente. Dunque, l'arcangelo San Michele, che scoprì a Monte Sant'Angelo 4-5 anni fa per caso, per puro caso, perché andai a vedere una un monumento, quello lì di Castel del Monte, praticamente mi disse una cosa, Michael, il suo nome praticamente che viene dall'ebraico. Sì, sì, ma cosa disse? Parlava? Sì, Michael. Ma il simulacro di Castel del Monte o una sua... alla basilica di Castel del Monte. Sì, ma cosa le disse quest'angelo? Mi disse una cosa semplicissima, il suo nome, Michael, ovvero sia chi come Dio. Quindi alle mie domande sulla esistenza, non esistenza, Dio, non Dio, relativismo, assolutismo, eccetera, questa lotta finta che adesso diciamo si sta instaurando. No? Ma lei sta facendo troppo... No, scusi Alberto, la devo segare. Va sull'ideologico, non racconta la cosa, sta raccontando, non mi va. Giuditta Dembeck, l'ho segato l'ultimo ascoltatore perché doveva fare un suo proclama. Non c'era la sincerità della persona che si espone nel dire quello che magari considera qualcosa di irraccontabile, di un momento di disperazione, un momento di speranza. Come la vedi te rispetto a queste telefonate, rispetto al campione di pubblico che stamattina ha parlato dell'angelo? Ma mi sembra che c'è un po' di confusione, soprattutto con la persona che identificava l'angelo custode con suo padre defunto. In effetti questa è la più grande causa così di dubbio. Le persone defunte, sì, ci rimangono accanto, la loro presenza, la loro energia, la loro protezione, il loro aiuto, ok, ma non sono angeli, non è che lasciando questa vita diventi un angelo. Se ognuno di noi quindi diventerebbe un angelo. Arrivano dalla terra, arrivano dal regno umano, mentre l'angelo non è nato di donna, discende direttamente dalla divinità. Sono proprio due mondi, due dimensioni, due modi di essere completamente separati. E questa è una cosa che io ritengo molto importante, cioè il discorso dello spirito guida, dell'entità, eccetera, eccetera. Non sarà Giuditta che in fondo l'angelo in sé è così consolatorio come concetto, che ognuno poi lo attribuisce, sbagliando, perché se uno vuole essere rigoroso dal punto di vista della dottrina, l'angelo è un essere angelico. Il ricordo della persona scomparsa, il ricordo della persona scomparsa. Non sa che proprio per questo c'è questa confusione e necessità di rifare il punto? Ma sai, è da molto che credano in qualcosa le persone, perché stiamo attraversando momenti bui, momenti di disperazione, di problemi di tutti i tipi, poi non c'è che da guardarsi intorno. E come vedi, negli ospedali, che è il punto in cui noi siamo più indifesi, più spaventati, più alla mercé degli altri, è negli ospedali che la presenza angelica si manifesta di più, o noi pensiamo di percepirla, perché sei più disponibile ad essere aiutato. Diciamo che si cade questo velo di pregiudizio nel momento che siamo in difficoltà. Ci guardiamo intorno, non vediamo esseri umani e andiamo a raccogliere quello che è il retaggio profondo, interiore, fatto di racconti, fatto di cose in cui credevamo, e vediamo a quel punto anche gli angeli. Rocco, sentiamo con Rocco la conclusione. Buongiorno. Velocissimo, che ho un minuto. Sì, io temo di essere preso per pazzo, però lo dico. Se sta paura, non lo dica allora, non lo so. No, non ho paura. Anche perché è un'altra opportunità. Va dal punto, se no parte la sigla e la seguo. Dico, io nella vita ho visto 3 materializzazioni di angeli. Io non lo so se erano angeli. Io ho visto esseri davanti a me che si sono materializzati. Non ci ho parlato. Ma avevano le ali o no? Prego, no, non avevano angeli. Allora non erano angeli, scusi, è fuori tema. No, stiamo parlando di angeli. Adesso non mi si prenda per costruttore di dubbio, di facezie. Ma era ben preciso, l'amica Giuditta Lemmer l'ha detto molto precisamente. L'angelo è un essere ben definito nella storia dell'umanità, che ha rivolto il proprio sguardo, la propria immaginazione, la propria emotività e il proprio essere al di là di ciò che vedeva e toccava e percepiva. Quelli sono gli angeli. Gli altri possiamo chiamarli con altri nomi, ma non si tratta di angeli. Grazie Giuditta Demberg, grazie Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, grazie ai nostri angeli custodi. Ci sentiamo domani. Melog 2.0. Alors tous deux on est parti dans tourbillon la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.